Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal 2012 produciamo sperando che vi sia utile per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 529 e in un momento come questo restiamo nell'attualità, continuando a parlare dell'emergenza legata al coronavirus da altri punti di vista rispetto a quanto fanno le principali fonti di informazione. Ne parleremo in termini pratici, dandovi qualche indicazione sui comportamenti prescritti a chi ha animali da compagnia. Ne parleremo in termini ecologici, facendo un nesso tra il contagio e la deforestazione selvaggia in corso da decenni. E ne parleremo anche in termini filosofici, dando la parola al professor Luigi Lombardi Vallauri, amico della non violenza e collaboratore storico di questa trasmissione. Non mancherà lo spazio per una good news, per una ricetta non violenta, vegana, cruelty free e per un po' di buona musica, anzi ottima musica grazie al nostro curatore musicale. Speriamo di avervi incuriositi. Oh yeah! Partiamo sciogliendo un dubbio che ancora serpeggia in rete ma anche nella società reale. Gli animali da compagnia non sono pericolosi, non sono contagiosi, non trasmettono il virus. L'americano CDC, cioè il Center for Disease Control and Prevention di Atlanta, dedica un intero paragrafo a Covid-19 e animali, dando una serie di consigli. Il documento governativo statunitense è tranquillizzante, nonostante il virus sia arrivato all'uomo da un animale, adesso la trasmissione di Covid-19 è uomo-uomo, quindi non c'è motivo di credere che qualunque animale, compresi quelli che vivono in casa, possano essere fonte di infezione. Non ci sono casi di animali malati, ma un solo caso di animale risultato positivo a Hong Kong, senza segni di malattia. Pertanto, il consiglio fondamentale, soprattutto per il loro bene, se si è malati di Covid-19, è quello di limitare i contatti con gli animali domestici e con gli altri animali, così come si evitano i contatti con le persone umane, gli animali umani. Per aiutare i cittadini e le cittadine a districarsi tra norme spesso scritte in modo bizantino o male interpretate, vi proponiamo un sintetico vademecum riguardante gli animali domestici. Le fonti sono i decreti ministeriali e le indicazioni di alcune associazioni animaliste. Numero 1. Il decreto del Ministero non vieta lo spostamento di uomini e animali all'interno dello stesso comune di residenza. Il nostro cane ha bisogno di passeggiare e questa uscita da casa rientra nelle deroghe come stato di necessità per motivi di salute umana e animale. 2. È possibile portare il cane da un veterinario, però non per controlli di routine, quindi solo per situazioni eccezionali. 3. Chi accudisce una colonia felina può continuare a farlo, in quanto è considerato anche questo uno stato di necessità, perché i gatti sono protetti dalla legge. Se non fossero accuditi, infatti, potrebbero disperdersi o essere sottoposti a maltrattamenti. 4. Chi fa volontariato presso una struttura può continuare a farlo se è strettamente necessario, quindi se ci sono dei turni da osservare. 5. Sulle adozioni degli animali dai rifugi, informatevi presso i rifugi stessi della vostra zona. Comunque, a noi risulta che siano sospese. 6. È bene, per le nostre uscite da casa, qualunque sia il motivo, compilare sempre l'autocertificazione. La Zampa, rubrica online dedicata agli animali del quotidiano La Stampa di Torino, ha diffuso il 13 marzo un video con una impressionante maxi rissa tra primati. Il titolo è questo: i turisti spariscono per il coronavirus e le scimmie affamate litigano per il cibo in Thailandia. E il commento alle immagini è il seguente: l'effetto delle misure intraprese per contrastare il coronavirus si ripercuote anche sugli animali. In un video diventato virale in queste ore sul web e visualizzato migliaia di volte, si vedono centinaia di scimmie selvatiche affamate litigare ferocemente per il cibo in Thailandia, nella città di Lopburi. I primati sono normalmente ben nutriti dai turisti, ma i visitatori in questo momento sono spariti a causa del virus che sta investendo tutto il mondo. Ora che le strade sono vuote, le scimmie sono rimaste senza cibo. Nelle immagini si vede una rissa scoppiata per un frutto. Quando uno degli animali fugge con una banana, gli altri lo inseguono tra l'incredulità e le grida dei locali. In situazioni come queste ci rendiamo conto di molte cose. Questo è un nostro commento. I danni prodotti dal turismo agli ecosistemi, la sensatezza del divieto assoluto di dare da mangiare agli animali selvatici dove esso vige, i meccanismi delle dipendenze che accomunano tutte le specie animali, inclusa quella umana. Anche noi umani dipendiamo ormai interamente da un sistema alimentare globalizzato che non ha più alcuna connessione con la nostra relazione con la terra e con il territorio di appartenenza. E questo ci rende fragili, come sono fragili le scimmie di Lopburi, con una differenza però: noi abbiamo le armi. E forse non è un caso se negli Stati Uniti la diffusione del coronavirus ha fatto aumentare del 60% la vendita di armi leggere. Chiediamoci contro chi verranno sparati tutti quei proiettili. Laddove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare. Questa frase lapidaria e sibillina, tratta dal libro Spillover, l'evoluzione delle pandemie di David Quammen, uscito in Italia per i tipi di Adelphi nel 2014, si apre il rapporto 2020 del WWF Italia intitolato Pandemie, l'effetto boomerang nella distruzione degli ecosistemi, tutelare la salute umana conservando la biodiversità. I più saranno propensi a pensare che parlare di biodiversità in un momento simile sia inappropriato e anche un po' snob, ma il rapporto, che chiunque può scaricare dal sito wwf.it, in sole 30 pagine vi farà ricredere, portando ragioni molto serie e razionali al titolo del rapporto stesso e all'affermazione di Quammen. Si parte da un assunto. Le malattie emergenti non sono eventi casuali, ma conseguenze del nostro impatto. Virus, batteri, funghi e protozoi vivono ovunque nella biosfera e non sono nemici da battere, ma fondamenti e presupposti della nascita e della persistenza della vita. Il punto non è la loro esistenza, ma il loro bilanciamento e la progressiva distruzione e modifica degli ecosistemi, dovuti principalmente all'agricoltura intensiva, alla deforestazione, alla penetrazione umana nelle ultime aree incontaminate del pianeta e al commercio di animali selvatici, ebbene questo bilanciamento lo hanno compromesso. Ogni habitat, infatti, conserva alcuni batteri, alcuni virus, che potremmo dire siano site specific, cioè ogni ambiente ha il suo peculiare equilibrio che si è formato in milioni di anni. Ogni organismo vivente è anche un serbatoio naturale di una serie di virus e batteri, con i quali e grazie ai quali si è evoluto e con i quali convive senza problemi, per il bilanciamento appunto raggiunto nei millenni. Il fenomeno della tracimazione, spillover in inglese, consiste nel passaggio del patogeno da una specie ospite a un'altra. Ma ogni volta che il virus infetta un nuovo ospite, per la sua conformazione biologica, esso cambia, muta, mescolando il proprio patrimonio genetico con quello degli altri virus presenti, un meccanismo che gli consente di riprodursi. E quando abbandona il suo ospite, non è più lo stesso virus di prima, ha cambiato il suo corredo genetico. Non c'è ancora una certezza scientifica sul vettore del Covid-2019. Sembra che sia passato da un pipistrello frugivoro a un altro animale, ancora ignoto, prima di arrivare all'organismo umano e poi propagarsi per via respiratoria tramite i fluidi, la tosse e gli starnuti. Ma c'è la certezza che dietro alla sua diffusione si nasconda il commercio spesso illegale di animali selvatici vivi. Come tutti gli organismi sulla Terra, ci spiega il rapporto del WWF, anche i virus vogliono massimizzare la propria sopravvivenza e a questo fine non possono provocare una eccessiva mortalità negli organismi che li ospitano, dato che la loro morte significherebbe il più delle volte anche quella del virus stesso. Il problema arriva nel momento dello spillover. Nelle nuove specie ospiti, l'equilibrio acquisito nel tempo viene meno ed è facile quindi che la letalità diventi molto più alta. Le zoonosi di origine selvatica, il passaggio cioè da una specie selvatica alla specie umana, potrebbero rappresentare in futuro la più consistente minaccia per la popolazione mondiale. Ebola, SARS, HIV, influenza aviaria sono solo alcune delle zoonosi di origine virale registrate a livello mondiale negli ultimi 50 anni. Gli scienziati ipotizzano un possibile Big One, cioè un virus straordinariamente efficace che partendo da qualche territorio deforestato o da qualche animale selvatico entrato in contatto con l'uomo possa diffondersi diventando più letale di un'arma nucleare. Gli scienziati descrivono l'azione distruttiva umana con l'aggettivo unprecedented, cioè senza precedenti. Questa forza distruttrice ci fa navigare a vista senza conoscere esattamente le conseguenze di azioni così impattanti e devastanti. La popolazione mondiale cresce a dismisura, siamo a 7,7 miliardi e con essa i consumi che impongono un impatto sul territorio senza precedenti storici. Si chiama antropocene e consiste, per fare qualche esempio, in più della metà delle foreste temperate tropicali abbattute, nel livello medio globale del mare aumentato tra i 16 e i 21 centimetri dal 1900. In 800.000 dighe che fermano corsi d'acqua e li modificano, nello scioglimento dei ghiacci e nell'innalzamento medio delle temperature, in un'alimentazione sempre più insana, in stili di vita sempre più sedentari, in una sempre crescente urbanizzazione e in circa 1 milione di specie animali e vegetali a rischio estinzione. We'll be right back. Tornando al coronavirus, il WWF indica nella foresta integra il nostro migliore alleato. La foresta integra trattiene in sé virus e batteri, conservandoli in equilibrio tra loro e con le specie viventi di quel luogo. Una foresta degradata, invece, spezzettata a causa di ampie strade e insediamenti umani, finisce per isolare in porzioni di foresta più piccole anche i patogeni che vi risiedono. E in queste isole, che restano appunto a sé stanti, avvengono dei pericolosi cambiamenti. Specie antiche scompaiono, specie nuove arrivano e così anche i patogeni subiscono modificazioni di adattamento estemporanee e imprevedibili. Il fenomeno ha un nome, si chiama coevoluzione e rappresenta una pericolosa conseguenza della distruzione degli habitat vergini. Per contrastarlo, e ci avviamo a concludere, serve quello che gli scienziati chiamano l'effetto diluizione, che si produce attraverso la varietà delle specie, la ricchezza in diversità dei viventi di un habitat. Questo rende meno probabile che una specie non adatta carichi su se stessa l'ospite sgradito, diventando così una trappola ecologica per l'organismo patogeno o per il suo vettore. E veniamo alle soluzioni proposte dal rapporto del WWF Italia. Una via d'azione efficace e sostenibile dovrebbe garantire un approccio chiamato One Health, che riconosce come la salute degli esseri umani sia strettamente legata alla salute di animali e ambiente. One Health è un concetto strategico, formalmente riconosciuto da tutti gli organismi internazionali, come ONU, OMS, FAO. Esiste sulla carta, però, ma non si traduce in politiche concrete. Eppure è così banale capire che tutti gli organismi viventi dipendono da ecosistemi sani per procurarsi cibo, acqua, energia e biodiversità. Una visione di insieme imporrebbe un nuovo accordo globale, un New Deal tra specie umana e il resto del vivente. Nel concreto, occorre dimezzare la nostra impronta come specie, arrestare la perdita di habitat naturale e l'estinzione delle specie viventi. Come vogliamo che sia il nostro futuro? Dobbiamo fare la scelta tra la soluzione tecnocratica, fatta di ospedali sempre più grandi, vaccini sempre più potenti, disinfettanti sempre più tossici, oppure ecosistemi naturali integri e difesa della biodiversità. E voi, care persone in ascolto, che futuro vorreste? Le Nazioni Unite hanno deciso di dedicare questo decennio proprio alla Ecosystem Restoration. Per saperne di più c'è anche un sito internet www.decadeonrestoration.org www.decadeonrestoration.org. Fade away. So I started. Abbiamo chiesto al filosofo amico della non violenza, il professor Luigi Lombardi Vallauri, di commentare questa pandemia, spostando il suo punto di osservazione filosofica dalla prospettiva umana a quella non umana. Beh, cosa dire dell'emergenza virus? In prospettiva antropocentrica non c'è dubbio che un'ipotesi pandemia mortale estesa a milioni di esseri umani dà angoscia tremenda, ci mobilita tutti per far fronte. Siamo esseri umani e la solidarietà tra noi prevale su ogni altra preoccupazione. Invece, dal punto di vista degli animali non umani e del pianeta Terra, sembra che non si possa non augurare al virus un po' di successo. Decine di miliardi di animali domestici vengono allevati e macellati crudelmente ogni anno. I selvatici subiscono una crescente minaccia di estinzione. Le piante, gli ecosistemi, l'atmosfera patiscono sotto il dominatore umano. Un solo esempio simbolico. Se l'ape finisce, il mondo sfiorisce. Se l'uomo finisce, il mondo fiorisce. Allora, viva virus! Dai virus, soltiscici! Non mi sento certo di dirlo. Ripeto che deve prevalere su tutto la solidarietà umana. Non ho dubbi. Se devo scegliere tra salvare il virus corona e salvare la birra corona, salvo senza esitazione la birra corona. Però mi sento di farmi fare lezione dal virus. Vedendo le strade vuote di auto, mi dico: quanto consumo in meno, quanto inquinamento in meno. Pensando alle foreste vuote di cacciatori, mi dico: quanto stanno meglio i pochi animali silvicoli rimasti. Pensando ai treni, gli aerei, pensando all'antropocene, dal punto di vista della natura, mi dico: un po' meno di impatto antropico ci starebbe bene. Quando vedo negozi chiusi, mi dico: di molto shopping potremmo anche fare a meno. Il virus, secondo me, ci ammaestra, non certo a non proteggere la nostra vita, ma a ripensare criticamente, attraverso tante rinunce, i nostri stili di vita. Ci vantiamo con ragione di appartenere alla specie Homo sapiens sapiens. Cerchiamo di non scivolare nella specie Homo sapiens insipiens. Cerchiamo di rendere desiderabile, dal punto di vista degli altri animali e della natura, una riduzione non delle vite, ma della nocività delle vite umane sulla Terra. Chiudiamo la puntata di oggi con una good news. Un'agenzia di Cronos del 13 marzo scorso. È tornata a casa Lolla, la giovane aquila di Bonelli che si era spostata in Calabria durante la prima fase della sua dispersione a fine luglio dello scorso anno. Il 10 marzo, dopo aver trascorso 7 mesi in continente, soprattutto nelle vallate della provincia di Crotone, l'esemplare ha deciso di tornare in Sicilia. Lo segnala il WWF, precisando che questo dato è rilevante ai fini della conoscenza della popolazione siciliana di questa specie, perché si tratta dell'unica popolazione nidificante in Italia e questo potrebbe consentire il ritorno naturale di questo rapace anche nelle altre regioni italiane, in cui è estinta da tempo a causa dell'uomo. La popolazione siciliana di Aquila di Bonelli conta più di 45 coppie riproduttive, un numero entusiasmante visto il dato di partenza. L'evento dimostra anche quanto risulti idonea la nostra Sicilia, ricca di ambienti capaci di garantire il successo riproduttivo delle coppie di questo splendido rapace. La. ed è dedicata a Lolla, l'aquila di Bonelli appena ritornata in Sicilia, la ricetta di questa settimana curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Come Lola, l'aquila che ha fatto ritorno in Sicilia, anche noi ci facciamo ispirare dal suo volo e dalla sua specie. E ce ne torniamo all'aquila, per l'appunto, con una ricetta tipica abruzzese per un aperitivo veramente sfizioso. Crostoni con crema di fave. Gli ingredienti per 4 crostoni sono 400 g di fave verdi fresche, 50 g di farina di ceci, 200 ml di brodo vegetale, olio extravergine di oliva, 4 fette di pane integrale, un foglio di alga nori, salsa di soia, capperi, menta fresca, sale e pepe. Diluite la farina di ceci con il brodo vegetale e un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete sale e pepe e fate addensare a fuoco lento mescolando. Quando avrete ottenuto una bella crema densa, togliete dal fuoco e versate in uno stampo rettangolare, precedentemente spennellato di olio, e lasciate raffreddare. Poi conservate in frigorifero almeno un'ora. Nel frattempo sbucciate le fave e lessatele in acqua salata bollente per circa 5 minuti. Quindi scolate e, appena possibile, togliete la pellicina esterna. Mettete le fave nel bicchiere di un mixer assieme a delle foglie di menta fresca, olio extravergine, sale e pepe, quindi riducete in crema. Con un pennello da cucina inumidite leggermente l'alga nori con la salsa di soia. Tagliate delle piccole strisce rettangolari, circa 1 cm x 4, e arrotolatele mettendo al centro un cappero. Tostate il pane e spalmate le fette con la crema di fave. Aggiungete la caciotta di ceci tagliata a cubetti e i rotolini di alga e capperi. Portate in tavola con un filo di olio extravergine ed una macinata di pepe nero fresco. In chiusura vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 530 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.